Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Avete sentito dunque l'Agenzia Spaziale Europea nel suo consueto punto annuale della programmazione. Annuncia, c'era molta attesa intorno a questo nome. Luca Parmitano è ormai al centro e direi alla punta della squadra astronautica italiana con Samantha Cristoforetti e naturalmente squadra che è all'interno di quello che è l'Agenzia Spaziale Europea. Quindi una bella notizia in apertura. Adesso invece, come dire, torniamo sulla terra e alle problematiche più consuete. Parliamo di accordo sui migranti. Questa mattina a Roma, all'interno dei Med Dialogues, quindi gli dialoghi per il Mediterraneo, è intervenuto il vice ministro degli esteri turco Ahmet İldiz. Ha parlato dell'accordo con l'Europa, che dice l'accordo sul controllo dei migranti è di fatto un accordo conveniente per tutti e funziona bene, e dice se c'è un problema non riguarda tanto i rifugiati ma l'impegno preso con i cittadini turchi. Insomma, la Turchia lamenta, l'Europa non sta facendo abbastanza per sostenere il dialogo che 10 anni fa sembrava dovesse portare Ankara all'interno dell'UE. Il servizio. La Turchia non potrà più attuare l'accordo sui migranti con l'Unione Europea se continuerà ad essere discriminata da Bruxelles. Il nuovo avvertimento arriva questa volta dal vice ministro degli esteri turco Ahmet İldiz durante il forum MED organizzato a Roma dalla Farnesina e dall'ISPI. L'accordo, che è stato raggiunto dopo lunghi negoziati, è frutto di un compromesso e funziona attualmente molto bene, ammette lo stesso vice ministro, ma il problema riguarda l'impegno pluridecennale assunto dall'Europa nei confronti dei cittadini turchi. Se riusciremo a risolvere questo problema, aggiunge, continueremo a fare quello che abbiamo fatto finora. Il numero dei civili che hanno tentato di entrare nei Balcani è diminuito notevolmente, ci sono meno persone che muoiono. Ma la situazione con l'Europa deve cambiare, stiamo negoziando da decenni e ci sentiamo discriminati. Insomma, la linea è sempre quella dettata dal presidente Erdogan ancora pochi giorni fa: stop ai visti per i turchi o si apriranno i cancelli al confine con l'Europa, si riverseranno lì migliaia di migranti. E intanto, sempre dal MED, l'alto commissario ONU per i rifugiati Filippo Grandi tenta una previsione su quante persone potrebbero perdere la vita in mare nel tentativo di arrivare nel vecchio continente nel corso del 2016. Almeno 5.000, dice. In 400.000 hanno attraversato il Mediterraneo quest'anno, 170.000 hanno raggiunto l'Italia. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Hollande abdica, questo è uno dei titoli di questa mattina sulla decisione del presidente francese. Da Bruxelles Pierre Moscovici dice: saluto la decisione difficile e toccante presa dal presidente, che ha ancora molto da dare alla Francia e all'Europa, così il commissario europeo agli affari economici. Servizio. Il ritiro di François Hollande alla prossima campagna elettorale sancisce il fallimento del suo mandato presidenziale sul piano politico e dell'immagine. Tutto è avvenuto certamente in seguito alla caduta verticale del suo consenso nei sondaggi. Il presidente francese ha capito il preciso segnale giunto dalle recenti primarie dei conservatori francesi, che hanno eliminato al primo turno Sarkozy e lanciato sulla scena il moderato di destra Fillon. La Francia necessita di nuovi volti. Con l'uscita di Hollande, i socialisti vanno alle presidenziali verso il sicuro disastro, nonostante l'ascesa in campo dell'attuale ministro dell'interno Manuel Valls, l'uomo che ha gestito l'emergenza terrorismo dopo gli attacchi contro Charlie Hebdo e quelli del Bataclan. Ma tutto questo non basta per comprendere fino in fondo la resa e il fallimento di Hollande. La Francia è rimasto l'unico paese europeo dove permane una tradizione di un partito socialista organizzato e potente. In Spagna e in Germania, socialisti o socialdemocratici hanno alla fine dovuto collaborare con i loro storici avversari attraverso governi di larghe intese. Nel Regno Unito i laburisti si leccano le ferite in seguito alla scelta di non opporsi in modo forte alla Brexit. In Italia il Partito Democratico aderisce sì al gruppo dei socialisti europei, ma la sua guida c'è una componente cattolica, dunque di estrazione popolare. Quindi chiunque vinca le presidenziali francesi del 2017 dovrà poi avviare una vasta operazione di ripulitura di macerie, quelle lasciate in eredità da François Hollande. È tutto, Europa 24 torna lunedì. Buon fine settimana a tutti voi. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.